Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. E ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma da cosa partiamo con questo sabato del villaggio? Iniziamo parlando di serie TV. E beh, è arrivata la settima e penultima stagione della serie HBO, che è un fenomeno planetario. I suoi fan non sono fan, sono proprio degli adepti, è proprio una setta. È difficile entrare in questa setta, perché se qualcuno volesse cominciare adesso deve farsi un bel recupero durante tutte le vacanze estive, perché appunto siamo alla settima stagione. Però siccome il clima è invernale, magari uno comincia a prepararsi e così si rinfresca un po' in questa stagione perfetta per le maratone. Allora, questa settimana in tanti hanno parlato ovviamente di questo ritorno del Trono di Spade. Io in particolare ho letto un pezzo irresistibile di uno dei miei critici televisivi preferiti, che è Antonio Di Pollina di Repubblica, che, come si dice su internet, la tocca piano, cioè ha preso una posizione veramente decisa. Gli piace proprio tanto questo Trono di Spade, e allora, altro che la realtà, qui si fa grande fantasy, è il titolo di questo pezzo che è apparso qualche giorno fa su Repubblica, pezzo di Antonio Di Pollina, e Antonio Di Pollina è con noi. Buongiorno Antonio! Buongiorno, eccoci, mi hai caricato di responsabilità. Esatto, esatto. Beh, senti, il critico televisivo ha delle responsabilità. Anzi, te lo chiedo subito, un tempo un critico televisivo aveva un po' l'esclusiva della recensione. Adesso, per un critico televisivo, di fronte a tutti i critici in rete, e anzi di fronte a quelli che in rete poi gli scrivono, come si pone? Sono in ottima compagnia, perché mica succede solo per la critica televisiva. Certo, certo. Vogliamo parlare della politica, dei ristoranti, degli alberghi, del tempo libero, dell'uso del tempo libero, di tutto quanto. Sì, è uguale, e quindi si cerca di, come dire, di fare comunque la propria parte finché si resiste. Ma diciamo che è stato abbastanza importante capire abbastanza subito come andava a finire, e quindi adattarsi un po' a questa nuova situazione che tu descrivi. Allora, l'ho detto, i fan del Trono di Spade sono adepti, sono una setta, l'hai scritto anche tu. Il trono e i suoi seguaci sono una setta, anche assetata di sangue contro chi non ci sta o si disinteressa. Fai capire agli ascoltatori che si disinteressano o che non sono ancora preparati perché vale la pena recuperare il Trono di Spade e mettersi in pari, come si dice in gergo, e gustarsi questa settima stagione. Allora, lo dico, lo faccio, fermo restando che io ho identico rispetto per chi preferisce altre cose, soprattutto in fatto di fiction, quindi si tratta di essere più razionali possibili. Dopodiché, il trono è una cosa di quelle come ne sono rimaste poche, cioè che hanno una unicità, che non sono replicabili in nessun modo, che non possono avere cloni, soprattutto dal punto di vista televisivo. Cioè non è che domani un canale scamuffo di quelli che stanno in piedi in qualche modo annuncia di aver fatto un'imitazione del Trono di Spade. Quindi vale soprattutto per quello, non c'è niente di simile al mondo in questo momento, e se ci si entra dentro, appunto tipo maratona, come hai detto tu, come hai illustrato tu, alla fine non solo non si può uscirne, si entra nella setta, e guai a chi non ci sta. Da questo punto di vista, cose come il trono, a questo livello di appunto importanza planetaria, non ce ne sono. Ci sono serie di grandissimo successo in tutto il mondo e così via, ma che portino a una identificazione simile e a sentirsi parte di quello che abbiamo detto finora, non ce ne sono. Quindi chi vuole cimentarsi nella prova, probabilmente non se ne pentirà. va visto come un fantasy che racconta solo una storia fantastica o va visto come una metafora? Il bello è che si possono fare entrambe le cose e anche non parlarne più, cioè non confrontarsi con chi la pensa in un altro modo. Chi vuole può mettersi lì col fantasy in questione e ritrovare anche degli archetipi clamorosi, storici, della letteratura e del modo di raccontare le cose millenari quasi, e quindi può seguirselo tranquillamente. Dopodiché, liberissimi chiunque di fare dopo... sì, il dibattito sì, e lanciarsi e dire no, questa è la rappresentazione, è il potere che si impone in questo modo, no, la forza dell'universo femminile, no, la contesa che il mondo va avanti in questo modo e qui viene rappresentato bene come lotta di, benissimo, fate pure il dibattito, il trono ve lo consente e non c'è niente di male, diciamo, in nessuno dei due casi. Anche perché sui social ci sono anche i gruppi che inneggiano ad appartenenza politiche dei protagonisti, cioè ormai insomma vale tutto sui social. Nel momento in cui dici sui social vuol dire che c'è davvero di tutto e c'è cittadinanza per tutti, poi sta a ognuno scegliere un po'. Io secondo me il trono vale anche perché sì, si possono anche dopo ignorare i social, oppure come nel mio caso si può restare abbastanza colpiti da Ed Sheeran che canta la canzoncina in mezzo e dire mica male tutto quanto, e scoprire che là fuori il mondo intero invece lo odia questa cosa, vorrebbe distruggere tutto, ecco, la prende come una profanazione, un affronto. Aspetta Antonio, facciamole sentire un pezzettino di questa Ed Sheeran. Down from Mr. Warmheart, all the winds and the steps and the carving, he rode to a woman's side. For she was a secret treasure. Tu hai scritto subito, prima le cose serie, il cameo di Ed Sheeran non è affatto male, la canzoncina che intona all'improvviso idem, eppure insomma la gente quasi ha fatto a botte per questa mi cosa. Mi assumo qua la responsabilità di continuare a pensarlo, io l'ho preso forse perché non sono davvero un fanatico di tutti gli addentellati e della simbologia del trono, ma lo seguo come uno, cioè in America dicono show per queste cose, dicono spettacolo. E c'è un motivo, così, io sono più di quelli che si mettono lì e se la godono senza diventare matti per forza a individuare cose, e quindi se mi spuca, se l'evento è una cosa divertente che dura 4 secondi in cui c'è Ed Sheeran che fa questa cosa, a me non ha dato assolutamente fastidio, liberissimo chiunque altro di pensarla diversamente, si intende. In questa lotta per il trono di tutte queste stagioni, però insomma, sangue e sesso, prima un po' di più, adesso un po' di meno, sangue sempre, quindi non adatta a tutti però. Beh, sì, infatti è HBO, non è una cosa che è andata in prima serata sulla CBS o sulla NBC in America, è comunque televisione moderna, forte, per adulti, diciamolo chiaramente, e che si assume le proprie responsabilità e non si nega nulla. L'importante è che il discorso sia chiaro in partenza. Se entrano i bambini piccoli qua da dentro c'è un problema, non fatelo a casa vostra. Don't try this at home, come si suol dire anche esatto. Qui hai detto HBO Sky da noi, quindi una puntata alla volta, non il binge watching, le maratone di Netflix o di Amazon, cioè noi ce le possiamo fare a casa appunto magari per recuperare le stagioni che non abbiamo visto, ma è un modo diverso di presentare le serie TV, cioè un episodio alla volta e non released, rilasciate, come si dice anche qui in gergo, c'è tutto un vocabolario per le serie TV tutte insieme. Fa la differenza questo? Dobbiamo decidere, e lo decidiamo vedendola, che una serie, la serie più importante che va in onda, decide ancora di essere resistente da questo punto di vista, cioè di proporsi con una puntata alla settimana, rifiutando quindi l'idea del binge watching. È una bella lotta, è una sta al pubblico decidere, poi anche in questo caso non c'è, cioè da noi abbiamo prima la cosa originale con i sottotitoli, chi invece la vuole assolutamente doppiata deve aspettare una settimana, non è univoca neanche in questo caso, ma il fatto di voler proporre un atteggiamento resistenziale davvero da questo punto di vista è una per me una qualità in più, anche perché io non sono tanto per il binge watching e essendo ormai anche pressoché anziano amo ricordo volentieri l'attesa per il nuovo episodio in arrivo, che lo faccia la serie che si attesti su questa posizione, la serie più importante del pianeta in questo momento, a me fa abbastanza piacere. Però è un tema molto forte, molto, molto interessante, perché un giorno dovremo decidere cosa preferiamo davvero da questo punto di vista, se ha ragione di più Netflix o se ha ragione di più HBO, Sky Atlantic da noi e così via. Mi piace molto questo dibattito, mi piace moltissimo parlare con Antonio Di Pollin, appunto qualche giorno fa aveva scritto altro che in realtà qui si fa grande fantasy, quindi se non l'avete visto correte a recuperarlo, vale proprio la pena di guardare insieme questo Trono di Spade, anche perché appunto è la penultima stagione ed è molto molto molto fresca, perché l'inverno è praticamente qui. Grazie ad Antonio Di Pollin, grazie per essere grazie stato con noi, ciao Antonio! Ciao, ciao! Allora, noi ci ritroviamo tra pochissimo perché abbiamo un sacco di argomenti anche abbastanza marini in questo sabato del villaggio di oggi. A tra poco. Il sabato del villaggio. La mia amica ogni anno si fa un bagnino diverso, proprio qua nella Riviera Romagnola. Il bagnino è il sacerdote dell'arenile. Io sono Max lo spalmatore. Sono maschio ma dolce. Tu sei sempre il leader, qua vengono sempre da te. Come la legge dei grandi numeri, se uno lavora in ufficio in un giorno potrà vedere 20 donne passare, poi tutte vestite, tutte qui in spiaggia ne vedi tantissime. Viene la signora, che viene la signorina, che viene, e insomma poi è via ancora da schicchere. Negli anni 50 e 60, quando arrivavano qua dei charter di ragazze, dovevi conquistarla questa ragazza, la parola chiave è attenzione. Svizzere, austriache, tedesche, inglesi, norvegesi, svedesi. Loro erano più emancipate delle nostre. Secondo con chi andavi avevi un puntetto. Si parlava dei tacchi. Bastava di portare a casa e sposare, va mica tanto bene. La pineta era il nostro scannatoio. Queste cabine qua, amiche del bagnino, si apriva, avevo un materassino. Ho conosciuto mio marito 3 ore dopo che sono arrivata. Oh, ne lasciate persa. Eravamo belli. Eravamo scatenati. Una settimana eravamo romanzi. Ho visto di quelle cose, qua se vi racconto tutto è un casino veramente. Io voglio capire perché Paolo Corleoni in regia fa di sì con la testa come per dire lo so, forse perché anche lui viene da luoghi di mare o più o meno. Allora ve l'ho detto che avremmo parlato di qualcosa di molto marino in questo secondo spicchio del sabato del villaggio. Beh ragazzi, avete sentito il trailer, è un documentario delizioso, Bagnini e Bagnanti. E cos'è? Un viaggio nella storia di una figura mitologica, leggendaria, il Bagnino, un documentario davvero divertente, un'idea folgorante. Abbiamo con noi al telefono chi ha avuto l'idea, chi ha realizzato questo delizioso documentario. Buongiorno a Luca Legnani, buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno anche a Fabio Paleari, buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti voi. Allora, voglio sapere subito com'è nata quest'idea. Luca, come vi è nata l'idea di andare a intervistare i Bagnini Italia? È nata una sera di fine luglio, io e Fabio, da buoni milanesi, era proprio in questi giorni, era il 22 o il 23 luglio del 2014, eravamo fuori da un cinema, eravamo stati a vedere un film ed eravamo sconsolati per l'assenza totale di piani per un agosto che si preannunciava caldissimo e più che altro senza alcun tipo di compagnia femminile per allietare le nostre calde giornate. E quindi abbiamo deciso di metterci in macchina, io ad esempio avevo una fantastica 1 a gas, uh-huh, e ci siamo messi su questa 1 a gas per andare da chi, come dire, di donne sa tutto e chi le donne le sa veramente conquistare, i bagnini italiani che ne hanno fatte cadere dagli anni 60 ad oggi centinaia di migliaia sotto ai loro piedi. Verissimo. E allora abbiamo detto, beh, andiamo a capire quali sono i segreti che ci possono portare ad avere anche noi un così grande successo col genere femminile. Non vi chiedo se poi siete riusciti a carpire i segreti e ad avere altrettanto successo. Voglio sapere, no, però... è stata una tragedia. Ah, vabbè, basta, vabbè, però almeno è venuto fuori un bel documentario. Voglio sapere, insomma, è un viaggio così divertente, di tanti incontri, però alla fine, Fabio, è stato anche un po' un viaggio antropologico e anche di un po' di storia d'Italia. Sì, io alla fine di questo viaggio, che poi è durato 2 anni, perché siamo partiti un'estate e poi siamo tornati, abbiamo visto il materiale durante l'inverno e l'estate seguente, Luca, pur essendo fidanzato, è riuscito a partire con me. Io siamo ripartiti e alla fine ci siamo accorti, alla fine dei 2 anni, rivedendo un po' il materiale, ma anche poi chiacchierando in macchina, perché noi da un posto all'altro ci facevamo le chiacchierate per capire anche la tipologia di bagnino che ci mancava nei confronti delle interviste già effettuate, che stavamo facendo un vero e proprio lavoro antropologico, non solo sul bagnino, ma non solo sulle spiagge, ma anche sulla cultura italiana, che ovviamente dagli anni 50 a oggi, che ci sono le spiagge con i tablet e i telefonini e tutto quanto, il salto era quantistico a tutti i livelli. Loro ci raccontavano che nel Laziale venivano giù dagli interni, dai castelli romani, i fagottari, questi personaggi che portavano lasagne, cibo per tutti, e tutti diventavano famiglia, e quindi tante di queste vicende ci hanno fatto capire che anche nostalgicamente, un po' malinconicamente, tante cose della bellezza della spiaggia erano svanite per sempre. Infatti, Fabio, ti stavo chiedendo se c'è, io l'ho sentito un pochino di sapore di nostalgia. Assolutamente, ma fa parte anche di quella cosa, perché stiamo parlando di ricordi, di tempi andati. Solo se ci voltiamo indietro riusciamo a vedere quei momenti. La cosa curiosa è che io e Luca abbiamo scoperto che non era mai stato fatto un documentario vero e proprio sulla figura del bagnino, perché prima di iniziare il girato abbiamo fatto una ricerca e incredibilmente c'erano delle scene nei film boccacceschi, come la chiamo a un certo punto la signora intervistata sulla spiaggia, di De Sica, così, ma un documentario vero e proprio non c'era, e quindi ci siamo anche un po' stupiti, perché è una figura importante costruita da Mussolini tra la prima e la seconda guerra mondiale per le famose colonie. Quindi queste colonie venivano invase dagli operai e c'era gente che in mare non sapeva neanche cos'era in quegli anni. Certo. Quindi Mussolini inventò questa figura che era il bagnino. E poi quante tante cose sono successe che hanno fatto diventare appunto questa figura leggendaria. Luca, come si fa a vedere questo film? Perché ovviamente i nostri ascoltatori adesso saranno tutti curiosi. Io ho avuto la fortuna di vederlo, in questi giorni è stato a Milano, ma cos'è, un tour per il documentario? Sì, quest'estate, ma di fatto già da quasi un mese a questa parte, il film sta girando un po' come una pallina impazzita in un flipper d'Italia. È stato questa settimana a Milano, questa sera è a Perugia al Cinema Modernissimo, Postmodernissimo. Postmodernissimo? Postmodernissimo. E poi andremo avanti con proiezioni specialmente in Riviera, dove siamo in attesa di avere le date esatte, ma saremo nelle arene estive a Riccione, a Cattolica, a Gabice, insomma i nostri distributori stanno lavorando alacremente per portare il film un po' ovunque. C'è una pagina Facebook, così possiamo... C'è una pagina Facebook che è facebook.com/bagnini e bagnanti, quindi ci trovate semplicemente con il titolo, e lì aggiorniamo costantemente le proiezioni e spero quanto prima anche una messa in onda televisiva. Sarebbe bellissimo, infatti stavo esprimendo il desiderio, perché secondo me appunto anche una messa in onda televisiva così potrebbe essere molto, molto divertente. Certo, responsabili è che... degli acquisti televisivi in ascolto, fatevi avanti. Ascoltateci e andate a vederlo e fateci un pensierino, perché vale davvero la pena vederlo. E chiunque abbia la possibilità di trovarlo in una delle arene estive, Bagnini e Bagnanti è il nome della pagina di Facebook, lì metteranno tutte le date, tutti gli appuntamenti. Secondo me è appunto per una serata così un po' nostalgica ma molto molto molto divertente. Vi anticipo, ci sono dei personaggi davvero da non perdere. Io ringrazio i due autori di Bagnini e Bagnanti, insomma questo ritratto della mitologica figura del bagnino. Grazie a Fabio Paleari e a Luca Legnani. Ciao ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. E noi ci ritroviamo tra poco. Grazie. Il sabato del villaggio. Andiamo a Nice, Val d'Aosta e come si dice? Sport aerei e agricoltura. Manda la sigla. Agronomi volanti! Sono molto contenta in questa puntata del Sabato del Villaggio di parlare di bei posti e di cose buone da mangiare. Cominciamo, poi lo faremo anche più avanti nella nostra trasmissione. Allora, avete già riconosciuto un estratto di una trasmissione che gli italiani amano. Gli italiani amano sentire parlare di viaggi, gli italiani amano sentir parlare di buone cose, e una delle trasmissioni alle quali gli italiani sono più affezionati tradizionalmente è Linea Verde. Allora, Linea Verde va a visitare tanti posti, ma sempre alla fine della puntata, quando a tutti viene un po' di appetito, vengono fuori le cose buone da mangiare. Ma non c'è solo quello che si vede in TV, c'è tanta grande esperienza, ci sono tante persone che ci lavorano con grande sapienza, e anche da questa esperienza nasce un libro che io ho qua tra le mani, voi non lo vedete alla radio ma ve lo racconto io. Si intitola Gustologia, viaggio nell'Italia del cibo dalla terra alla tavola. Ha due firme, infatti sulla copertina ci sono due ritratti molto carini, un po' naif, molto molto carini. Io do subito il benvenuto al Sabato del Villaggio a Patrizio Roversi. Buongiorno Patrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. E a Martino Ragusa, buongiorno Martino. Buongiorno. Allora, Patrizio Roversi, giornalista, scrittore, conduttore, lo conoscete. Martino Ragusa è gastronomo e consulente gastronomo per Linea Verde. Quindi Martino, ti chiedo subito, come si fa il consulente gastronomo per Linea Verde? Anche perché da questo momento è uno dei miei lavori dei sogni, eh? Cioè ufficialmente è uno dei miei lavori dei sogni, è fare il consulente gastronomo, non dico per Linea Verde perché ci sei già tu, per un'altra cosa. Come si fa? Ecco, questo me lo auguro, che non mi posso. Guarda, il problema va diviso in due. Prima devi diventare gastronomo e poi consulente gastronomo. È quindi il è un po' lungo. Complicato. E adesso ci sono anche le università che formano gli addetti alla ristorazione, e non solo, ma anche alla quelli che scrivono di cibo. Sto pensando all'Università di Pollenzo e anche altre scuole. Però diciamo che molto ancora è lasciata la formazione individuale spontanea. Io faccio parte di un'altra generazione, quella che ha imparato da solo, prima sui fornelli, partendo dalla tenera età di quando era ancora teenager, fino poi ad ampliare le conoscenze con studi e viaggi continui. Viaggi continui, perché in questo Gustologia davvero si capisce che le zone le avete girate e che i piatti li avete conosciuti davvero. Poi vi farò un esempio. Patrizio, nell'introduzione scrivete che la cucina è cultura. Ormai la cucina è televisione, la cucina è tempo libero, la cucina è passione, però la cucina è tanto cultura. Ma guarda, nel libro il diciamo il presupposto è questo: unire in un'unica filiera, in un unico percorso logico, diciamo così, il territorio, le sue caratteristiche, fino alla gastronomia. Cioè, se vuoi parti dal piatto e da una ricetta puoi ricostruire l'ambiente, la storia, gli usi e i costumi di una zona, in questo caso di una regione, e arrivi alle caratteristiche proprio anche del territorio, quindi il clima e quindi l'esposizione dei terreni. Un incontro che è stato per me particolarmente felice è stato quello con i pedologi, che studiano proprio le caratteristiche del terreno e del territorio, partendo dalla storia geologica, ma arrivando poi alle potenzialità che il terreno può avere per produrre quel tipo di prodotto agricolo. Ecco, quindi unendo le mie curiosità, perché io purtroppo non ho grandi competenze, con le competenze di Martino, abbiamo cercato di completare questo itinerario, davvero dalla terra alla tavola. Patrizio, hai girato il mondo, alla fine però in ogni regione d'Italia si trova un mondo, si trovano dalla sfida dell'aerosol agropiccante, che mi ha fatto molto ridere perché non hai provato il bungee jumping nelle isole Vanuatu, ma anche questa è un'esperienza estrema, al cibo per campare cent'anni nelle Marche, ai cibi del nord, del sud, dell'est, dell'ovest. Un viaggio in Italia attraverso la cucina è avventuroso come un viaggio nel mondo? Ma guarda, è un concentrato, perché in realtà è ormai un luogo comune, però è un luogo comune vero, e l'abbiamo detto spesso io e Siusi dopo aver girato un po' il mondo: il paese a più alta biodiversità e variabilità da tutti i punti di vista è l'Italia. 5 chilometri e cambia il clima, cambia il paesaggio, cambia la lingua, cambia quindi la gastronomia, cambia la terra, cambia la storia, cambia l'ambientazione anche monumentale, e quindi viaggiare per l'Italia è un continuo percorso tra mille sorprese. Tra l'altro, tu prima chiedevi a Martino com'è che aveva fatto a diventare gastronomo. Ecco, aggiungo una cosa, visto che ci conosciamo da tanti anni. Lui, in tempi non sospetti, veramente, lasciamelo dire Martino, 30 anni fa, ha cominciato a girare, a viaggiare, prendendo treni, autobus, a volte anche prendendo dei passaggi sui trattori, ed è andato nei territori, nei luoghi, a vedere concretamente chi faceva i prodotti tipici, dove si facevano e come si facevano, no? E quindi appunto la gastronomia diventa un pretesto per un turismo mirato e per una esplorazione vera e propria del territorio. Allora, io ho fatto il mio personale controllo di qualità da golosa e sono andata subito a vedere la mia regione. Allora sono andata a vedere la Lombardia e sono andata a capire se era davvero attendibile questo libro. La prima ricetta che viene citata, a parte insomma l'approfondimento sul risotto alla milanese, sono gli sciat della Valtellina, che sono un piatto molto particolare e che conosce solo chi ha davvero girato le zone. Quindi Martino, il controllo di qualità mio personale è passato subito, perché io sono che mi hai dato, eh? Allora, ovviamente scherzo, no? Non ho nessuna autorità in merito. Però insomma, io sono un po' brianzola, un po' valtellinese, un po' lariana, insomma, il primo piatto valtellinese molto particolare come il sciat vuol dire che sei andato proprio alla ricerca dei cibi, come faceva un tempo Mario Soldati, no? Alla ricerca dei cibi genuini. Ma guarda, io adesso ho paura che l'estrema mobilità delle idee, delle immagini che avviene con i social, per esempio, possa fare trascurare l'esperienza diretta, che invece, lasciamelo dire, è veramente tutta un'altra cosa. Un grande psicanalista, Bion, diceva che si apprende solo dall'esperienza. In realtà questo è un paradosso, un'esagerazione, però è così. Se l'esperienza diretta non è sostituibile da alcun totem o alcun feticcio, bisogna andarci per capire come stanno le cose. Sono estremamente d'accordo. Patrizio, a te invece volevo chiedere, peraltro, visto che giri il mondo e anche tu sei stato precursore di una televisione che poi avrebbe conquistato i palinsesti, cioè hai fatto prima degli altri quello che poi tutti gli altri hanno sperimentato. Cosa pensi di questa posso dire roversizzazione della televisione? Magari, ma sei troppo gentile. In realtà il merito a suo tempo è stato di Siusi, perché era il 1991. Cioè, non vorrei essere sempre quella che è da parte delle donne, non volevo dirlo, però è vero, nel senso che lei aveva voluto andare a tutti i costi a fare un viaggio in India, io ero assolutamente reticente e terrorizzato, e allora lei ha acquistato una delle prime telecamere, diciamo così, che garantivano un minimo di qualità per poi fare dei prodotti che potevano essere messi in onda, era una Super 8 I-Band, me l'ha comprata, me l'ha messa in mano e ha detto dai, con la scusa che potrebbe essere un lavoro, vieni in viaggio, e infatti è stato il primo viaggio di Turisti per Caso. Ecco, da allora, ma non è merito nostro, insomma, è un avvento di una tecnologia di carattere democratico. Secondo me dietro c'è anche una speculazione proprio delle industrie, che hanno capito che i professionisti ormai erano saturi, no? E dovevano rivolgersi al settore che è definito consumer, cioè i dilettanti, le persone normali, dando in mano a tutti degli strumenti che poi possono realmente raccontare le cose, possono realmente diventare televisione. Poi adesso addirittura siamo arrivati ai telefonini. Per certi aspetti è un sogno che si avvera, la famosa comunicazione orizzontale, tutti che diventano consumatori e produttori di informazioni e di immagini. E dall'altra naturalmente è una situazione difficilmente gestibile, perché poi questa quantità enorme di cose e persone che producono crea un rumore di fondo abbastanza terrificante. In ogni caso, nelle trasmissioni televisive ormai moltissima parte delle immagini è in ogni caso prodotta da delle telecamere, diciamo così, semi amatoriali. C'è anche un po' un vezzo, no? Insomma, tante trasmissioni che potrebbero essere fatte tranquillamente con delle belle immagini, poi vengono fatte invece con le GoPro in mano, che svolazzano di qua e di là, e qualche sentimento di mal di mare lo danno ai telespettatori. A volte questo è un vezzo inutile, una moda, a volte invece ti permette di raccontare cose che viceversa non riusciresti a fare. Prima di salutarvi voglio chiedere a entrambi qual è il piatto al quale siete più affezionati di questo gustologia. Io l'ho già detto, sono gli shat, però adesso che ho scoperto l'esistenza del formaggio femminista voglio andare a provarlo, per adesso che so che esiste non vi dico niente perché l'ho andata a vedere su gustologia. Martino, qual è il piatto del cuore tra questi? Tralascio quelli della mia regione perché sarebbe troppo... Regione che è? La Sicilia, beh, insomma, lì è anche una vasta scelta, peraltro. Nome nomen, ti chiami Ragusa, quindi nome, sì, ecco. Sì, direi il risotto giallo. Ah, il risotto giallo, beh, sì, anche qui, insomma, un grande classico. Patrizio, piatto del cuore? Pronto, no, anch'io avrei potuto dire il risotto perché, diciamo, è un prodotto delle mie parti. Io sono di origine mantovana, però invece, e non è un omaggio a Martino, il piatto che mi piace di più, che lui mi ha insegnato a fare molti anni fa, è la pasta alla norma. Io credo che sia il trionfo del Mediterraneo, per me è il massimo, è la cosa che devo dire a livello gastronomico mi eccita di più. Favoloso. Come scrivono Martino Ragusa e Patrizio Roversi in Gustologia, viaggio nell'Italia del cibo dalla terra alla tavola, edizioni Raieri, c'è più cultura in una ricetta tradizionale che in un'enciclopedia. È verissimo, e poi l'enciclopedia, lo dico io, è molto molto meno gustosa. Grazie a Patrizio Roversi e grazie a Martino Ragusa. Grazie a voi. Prego, ciao. Prego. E sempre viva Linea Verde. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta Il sabato del villaggio. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. La Val di Vara è caratterizzata da una natura incontaminata, fatta da boschi e prati. l'Alta Valle è conosciuta anche come la Valle del Biologico. Dalla metà degli anni 90, infatti, i 7 comuni della valle, guidati da Varese Ligure, hanno deciso di puntare su un modello sano e sostenibile. L'intera Alta Val di Vara è diventata un esempio virtuoso di conversione al biologico. Nel 2013 è nato così il Biodistretto della Valle, un'area di circa 345 km quadrati che oggi può contare su più di 50 imprese agricole e zootecniche nate come biologiche o convertite al biologico. Dai pascoli di alta quota dove si allevano allo stato brado i bovini di razza Limousine, fino al caseificio di Varese Ligure, che raccoglie e trasforma il latte dei produttori associati alla casearia. E torniamo a parlare di viaggi, a sognare i viaggi, come sempre al Sabato del Villaggio. Chissà dove ci porta oggi Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita. Ciao Marta, ciao Marta. Allora, dove andiamo? Salve a tutti gli ascoltatori. Andiamo in una Liguria diversa, in una Liguria altrettanto bella, ma un po' insolita, la Val di Vara, la Valle del Biologico. E abbiamo, come ogni settimana, un ospite che ci guida, in questo caso soprattutto tra i sapori della Val di Vara. Lo saluto e lo ringrazio, Silvano Zaccone, responsabile locale di Slow Food di Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Val di Vara e Riviera Spezzina. Salve. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo, Zaccone, una Liguria diversa, nell'entroterra Ligure, la valle più grande della provincia della Spezia e la valle più grande di tutta la Liguria, che prende il nome da questo omonimo fiume. Una valle enogastronomicamente speciale. Ci spiega perché? Intanto la Val di Vara è un territorio poco conosciuto e apprezzato, e di questo siamo un po' dispiaciuti. Per la verità, negli ultimi anni sono stati fatti dei grossi passi in avanti, e devo dire grazie soprattutto ai produttori legati alla rete, non solo alla rete dello Slow Food. Perché sicuramente si lega a produzioni biologiche e anche convenzionali che di qualità, quindi la presenza da molti anni di un radicamento forte di agriturismi presenti sul territorio, con una particolarità: parte di delle persone che conducono queste attività sono persone che provengono da altre parti d'Italia. Che quindi hanno scelto la Val di Vara. Hanno scelto la Val di Vara, e legate soprattutto anzitutto a un fenomeno importante accaduto in Val di Vara meno di 15 anni fa, grazie alla sensibilità, all'intuizione di Maurizio Caranza, sindaco di Varese Ligure, purtroppo scomparso da diversi anni. E grazie, ecco, appunto Maurizio, appunto è stato avviato questo progetto. Ecco, io ho letto questa storia, Marta, che è una storia molto bella. A metà degli anni 90, Maurizio Caranza era il sindaco allora di Varese Ligure ed ebbe questa intuizione assolutamente poi geniale di puntare tutto sul verde. Sì, diciamo, lui ebbe questa intuizione di puntare sulla certificazione EMAS, ancora prima sul recupero del centro storico di Varese Ligure, e fu un po' l'antesignano per la Val di Vara. Io lo conobbi nel 99, quando fui eletto sindaco di Pignone. Pignone si trova in Val di Vara, nella bassa Val di Vara, in tutto sono 15 comuni, e lì nacque un rapporto all'inizio conflittuale con la persona, perché è una persona di una grande generosità, ma di una molto duro, molto forte. Poi nacque un'amicizia profonda che è rimasta fino alla sua morte, avvenuta 8 anni fa. E devo dire, grazie a lui sono stati sviluppati, oltre a quello che è il concetto della Val di Vara della biologica, quindi della nascita del distretto biologico, la Valle del Biologico, come così chiamata, diciamo, però tutto un progetto importante che riguarda non solo le peculiarità che normalmente le persone conoscono, lo yogurt, le carni e il formaggi, ma sono praticamente le tre entità produttive di gran lunga più importante dal punto di vista del biologico, e sono quelle che grazie appunto alla una conduzione saggia di chi ha portato avanti queste esperienze, oggi rappresentano un dato di fatto da un punto di vista occupazionale molto interessante. Ma oltre a quello c'è la presenza di una serie di piccole attività, non solo agriturismi, ma aziende agricole che sono legate al biologico, e laddove non sono legate al biologico sono legate a disciplinari di slow food, e quindi è nell'insieme una realtà virtuosa, poco conosciuta, diceva all'inizio, ed è questo è un peccato, e quindi l'augurio, l'auspicio che anche attraverso la nostra radioguida, la nostra radioguida che gli ascoltatori possono scaricare, l'audioguida che ci accompagna con l'esperienza anche del Touring Club nella Val di Vara, possono iniziare questa scoperta della Val di Vara, diventata biodistretto nel 2013. Sì, esatto, è diventata biodistretto. Il limite del biodistretto, come io dico sempre a voce alta ma senza polemica, è l'essere allocato, essere ubicato in 7 comuni della valle, non in 15. Questo è un limite, e quindi è l'Alta Val di Vara, corrisponde attualmente a quella che era la comunità montana Alta Val di Vara. La speranza è che questo il progetto vada avanti e si ampli anche in altre realtà. Ci sono comuni che fanno parte della media della Bassa Valle che meritano sicuramente di poter entrare, diciamo, in questo tipo di ambito, perché la Val di Vara nel suo complesso è una cosa molto bella e molto importante per noi. Poi io l'ho vissuta da amministratore 10 anni, e dopo ho iniziato questa esperienza con Slow Food diventando il presidente di questa condotta, che chiaramente è presente in Val di Vara con molti associati, con 11 comunità del cibo e con un presidio. Ma cosa si mangia di buono? Perché io prendo già appunti. Allora, diciamo, in Val di Vara si mangiano essenzialmente dei piatti che sono l'espressione di un rapporto di questo territorio con altri territori, per capirci. Varese Ligure è più legato al territorio emiliano e al Tigullio. Sì, perché siete in una zona di confine con tante realtà gastronomiche. Esattamente, quindi i crosetti o crozzetti, così chiamati, sono l'espressione di un piatto che lega questo territorio al Tigullio, diciamo, a Genova. E scendendo nella valle abbiamo altri prodotti che poi portano alla composizione di piatti un po' particolari, ma nascono sempre da un mondo contadino povero, quindi l'uso di tutti i prodotti orticoli, quindi per fare minestrone, ad esempio in Val di Vara c'è una iniziativa dedicata al minestrone, una sagra che viene fatta annualmente in un paese, in un borgo che si chiama Pignone, in Comune di Sesta, dedicata appunto al minestrone. Ma non solo, quindi c'è un problema legato anche alla produzione delle castagne, quindi tutto quello che è il ciclo della castagna, che poi porta alle frittelle, porta alla pattona, porta una serie di prodotti poveri. In Val di Vara abbiamo avuto quest'anno la felicità di avere un'azienda, una nostra azienda legata al circuito Slow Food di Silvia Bonfiglio, condotta da Silvia e dal marito Maurizio, che è stata premiata a Massa Marittima con la farina di castagne più diciamo migliore d'Italia. Ora, che meraviglia! Erano più di 40 partecipanti. Per noi è stato, per gli interessati e per le persone che amano la Val di Vara, abitano o la vivono, come il sottoscritto che la vive, pur essendo nato in Val di Vara, abita La Spezia, è per noi è stato un motivo di profondo orgoglio. Ma non è il solo elemento, sono tutto quello che riguarda, non so, le patate, i fagioli di pignone, che danno ovviamente luogo a dei piatti poveri. Ma è vero, Zaccone, che ci sono anche dei vini speciali? Allora, i vini sono poco conosciuti, e io vorrei spendere una parola per i vini. Noi abbiamo una realtà nel comune di Sesta Godani in particolare molto interessante. Anni fa abbiamo creato insieme agli interessati, insieme ai viticoltori, una piccola comunità del cibo che attualmente comprende 3 viticoltori, una a Bozzolo e 2 a Cornice. Cornice è un po' il punto focale di questa, diciamo, di questo progetto importante, al quale sta lavorando da diversi anni Ivano De Nevi insieme alla moglie Carmen Saccomani e insieme a un'altra ragazza giovane che si chiama Giorgia Grande. Loro stanno a Cornicio, che è un paesino che sovrasta le anse del fiume Vara, ed è molto bello, dove c'è tutta questa produzione di vini, soprattutto rossi, ma non solo rossi, ma anche bianchi. Ma i rossi sono in particolare molto molto, diciamo, molto conosciuti a livello del nostro comprensorio, e meritano di essere conosciuti altrove. Grazie. E voglio aggiungere una cosa prima di chiudere, se me lo consente: l'aver anche collaborato alla guida del Touring Club Go Food è stata una scelta anche importante. Dopo l'alluvione del 2011 avevamo due scelte da fare in Val di Vara: o chiudere o ripartire. Siamo ripartiti. Questo è un insegnamento importantissimo. Grazie a Silvano Zaccone, responsabile locale di Slow Food di Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Val di Vara e Riviera Spezzina. Marta, allora, borghi straordinari, si mangia bene, si beve bene, non resta che scaricare la radioguida. Io scarico la radioguida, che c'è sul sito di Radio 24 e anche sul sito del Touring, e ho già fatto anche la lista della spesa, perché voglio assolutamente andare. Poi si capita in Liguria magari per andare al mare, e invece andiamo nella Val di Vara. Sì, andiamo nella Val di Vara. Alla prossima settimana, Marta. Ciao, grazie. Ciao Anna Rita.